Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca Romano e, come ormai sapete, insieme a Franco Cesari ed Elisa Pasquini faccio parte dell'associazione culturale Energicamente Competenze per il Benessere. Questa sera vi parlerò di riflessologia plantare. Che cos'è la riflessologia plantare? La riflessologia, ossia l'uso del massaggio cosiddetto zonale, affonda le sue radici nella notte dei tempi. Da sempre, infatti, l'uomo ha cercato di alleviare il proprio dolore frizionando, massaggiando o premendo alcune parti doloranti del proprio corpo. Questa modalità, che può essere definita di autoaiuto, è stata infatti riscontrata fino da 5.000 anni fa in Cina, in India, citata addirittura nei testi Sacri Veda, e nella civiltà egizia. Da alcune incisioni e disegni si è dedotto che addirittura anche le popolazioni Incas e Maya ne facessero uso. La riflessologia può definirsi esattamente come scienza dei riflessi, intesi come zone corrispondenti e riflesse di determinati organi del corpo che si trovano altrove rispetto alla zona trattata. Nei piedi, ad esempio, esistono terminazioni nervose che, attraverso la spina dorsale, arrivano al cervello collegando tutte le parti del corpo. La riflessologia plantare consiste quindi in un massaggio che si applica a tutta quanta la struttura del piede, dorso, pianta, profili mediali e laterali, e comporta essenzialmente l'esercizio di digitopressioni su punti corrispondenti a terminazioni nervose, segnalati su delle mappe, le cosiddette mappe di Fitzgerald, le più conosciute, cui corrispondono, a loro volta, in riflesso vari organi ed apparati. Il tutto ha lo scopo di inviare messaggi al cervello, stimolando l'intervento sul problema, soprattutto attraverso la mobilitazione di tutte le risorse di autoguarigione del corpo. Il piede può manifestare problematiche di natura meccanica, traumatica, posturali, nonché dolori che possono corrispondere, per via riflessa, ad un problema situato in una zona specifica del corpo. Talvolta però il dolore o il problema specifico non necessariamente corrispondono ad un disagio fisico, ma sono collegati ad un disturbo psicosomatico e quindi attinente allo stato più prettamente energetico che fisico della persona, oppure caratteriale, oppure emotivo della persona stessa, e possono purtroppo essere fonte di forte stress per il piede, giungendo a causare anche malformazioni dello stesso con tutte le conseguenze fisiche del caso. Poiché il dolore che si avverte spesso precede la somatizzazione del problema, attraverso un corretto studio delle corrispondenze fra organi, sintomi e causa della malattia secondo i principi classici della medicina tradizionale cinese, un trattamento di riflessologia plantare può prevenire la trasformazione patologica del problema. Infatti, il massaggio operato tramite la riflessologia plantare, utilizzando pressioni, stimolazioni e compressioni dei punti riflesso del piede, rilassa e tonifica tutto l'organismo, scioglie le tensioni muscolari, favorisce il fluire della circolazione sanguigna e migliora la circolazione linfatica, ma soprattutto aiuta l'organismo a sviluppare le proprie difese e ad alleviare disturbi cronici o acuti, aiutando le persone a ristabilire il proprio equilibrio psicofisico. Per questa sera è tutto, e nel ringraziare nuovamente Radio Big World per l'opportunità concessaci, e io vi saluto, vi auguro buon proseguimento, rinviandovi al prossimo appuntamento settimanale, invitandovi altresì a visitare, al fine anche di reperire i nostri contatti, il sito www.energica-mente.it. Buona serata a tutti.